si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sabato sera, provincia tra Lecco e Bergamo, una coppia di ex, ex fidanzati, ex amanti, ex conviventi, comunque ex, stanno placidamente in una sorta di ritorno di fiamma momentaneo, seduti davanti al divanetto e guardano C'è posta per te di Maria De Filippi. A un certo punto lei, guardando la coppia Totti, Ilari Blasi, ospite di una delle tante taroccate desiderata che appaiono in quel programma, dice si vedi loro sì che si amano, quella sorta di dolciastro sogno zuccherino della velina bella e rifatta, il grande eroe del calcio nazionale con i bambini, con tutta quella cosa intorno. Beh, dice, beh, vedi, quella è una coppia che si ama non come noi. A lui girano un po' le palle e dice, beh, guarda, tu non sei adatta, tu non sei Ilari Blasi, vorrebbe dirgli probabilmente. Lei si imbufalisce, va in cucina, prende un bel coltellone a punta, torna di lei e l'ammazza. Poi naturalmente lava il coltello, lo pulisce, lo mette a posto, chiama i vicini, prova a far credere che lui si è praticamente sventrato per tentare il suicidio, non le credono. Beh, questo è uno dei tanti delitti in famiglia. Mi sembra che ormai sia un condimento quotidiano, non ci sorprendiamo nemmeno più a vedere persone che si ammazzano in casa. Ma è una vicenda che non tocca soltanto il nostro paese. Negli Stati Uniti un terzo degli omicidi è compiuto in famiglia. E pare che anche in Italia i delitti cosiddetti fuori contesto criminoso sono aumentati 15 volte negli ultimi 5 anni. Si ammazza sempre di più, si ammazza sempre più volentieri. Sono sempre ad ammazzare le persone che noi non sospetteremmo mai. Facile che un killer della camorra uccida, è il suo mestiere, è nato per quello, è stato programmato per quello. Che una placida signorina della provincia tra Lecco e Bergamo apra la pancia al proprio fidanzato ci sembra più difficile. Ma la televisione ci ha abituato, i delitti eccellenti sono diventati ormai un tessuto di fiction, li guardiamo tutti i giorni, siamo abituati a capire che in fondo l'omicidio è una delle tante possibilità per scaricarci i nervi, per metterci tranquilli con dei vicini molesti. Il caso è ormai arcinoto, la coppia di signori di 50 anni sembrano inoffensivi, ometti e donnette di mezza età, si vestono da ninja e vanno a casa dei vicini e fanno una strage, oppure fidanzati dalla faccia d'angelo, fidanzate meravigliose, ragazzine che massacrano i genitori. Siamo talmente abituati che ormai non ci sorprende più. Recentemente sul Corriere della Sera Renato Mannheimer ha fatto un suo sondaggio, dice che un italiano su tre è favorevole alla pena di morte. Beh, tutti questi elementi messi assieme mi hanno fatto pensare, forse è il caso questa mattina di resumare un vecchio strumento teatrale che ho spesso usato nelle mie trasmissioni radiofoniche. È la macchina della morte. Un italiano su tre è favorevole alla pena di morte. Bene, a parole sono tutti bravi, ma chi se la sentirebbe di uccidere con le proprie mani? In parole povere, voi lo fareste il boia? Siamo tutti assassini. La più umana delle risposte è un forte no. No. No. L'omicidio è un tabù universale e noi viviamo nel consolante stato d'animo di pensare che gli assassini sono gli altri. Violenti, serial killer, pazzi o assassini autorizzati perché la legge lo consente. Boia, appunto. Spesso mi capita di parlare con Vittorino Andreoli, che è un neuropsichiatra e anche un personaggio televisivo. L'avevo cercato ieri ma non siamo riusciti a trovarlo, però siccome ci ho parlato molte volte, molto spesso anche di questi argomenti, vi riassumo un po' quello che dice. Andreoli è passato alla storia per essere stato il primo negli anni 90, ai tempi del delitto Pietro Maso, ricordate, dei giovani di buona famiglia, buona in quanto con buone facoltà di acquisto, massacrano i genitori semplicemente per prendergli dei soldi a Montecchia di Crosara. fu un fatto clamoroso. Tutti dicevano: ah, sono giovani pazzi, non appartengono alla nostra specie. Beh, Andreoli, al tempo che fece la perizia psichiatrica su Maso e amici, disse: sono ragazzi perfettamente normali, sono i nostri figli, sono fatti come noi, siamo tutti assassini. Questo creò un grande scandalo, ma Andreoli rimane della sua teoria. Lui, che nella sua vita avrà fatto perizie non so a quante centinaia di serial killer, mi ha detto che non gli è mai accaduto di trovare un assassino che nel giro dei primi 5 anni all'omicidio si fosse pentito all'omicidio. Dice: uccidere è un atto titanico, è un atto liberatorio, un atto che dà grande soddisfazione. Siamo in un momento in cui alcune possibilità di scaricare le nostre tensioni sono piuttosto attenuate. L'uomo ha una grande violenza all'interno e il momento e lo scatto per cui uccide un'altra persona è semplicemente un freno culturale che lo blocca, è un'inibizione sociale, ma in realtà dentro di noi siamo tutti assassini e quindi ho preparato per voi la macchina della morte. Quanti vorrebbero essere boia per un giorno? Mettiamo per assurdo che qualcuno vi offrisse la totale impunità legale. Lo fareste? E se questo qualcuno vi togliesse di mezzo ogni condanna etica? Insomma, portasse un prete, un giurista, uno psicologo, chiunque sia capace per voi a sollevarvi la coscienza dicendovi che è giusto farlo. Voi lo fareste? Capiamo che non è bello ammazzare un essere umano. Quello magari strilla, chiede pietà. Poi c'è il sangue, l'odore di polvere da sparo, la carne arrostita, il gas. Quante spiacevolezze. E se ve le risparmiassimo? Diciamo che vi potremmo fornire una macchina della morte perfetta, asettica, silenziosa ed ecologica. Basta che ci diciate chi volete uccidere e perché. Al resto pensiamo noi. È il momento di agire. Vi tirate indietro? Se ci chiamate, noi azioniamo la macchina. (800) 24 00 24, cominciate a chiamare. La domanda è molto semplice. Immaginate che, per assurdo, sappiamo che non va fatto, sappiamo che è detestabile, sappiamo che è osceno, sappiamo che l'atto peggiore può compiere un essere umano, sappiamo che la pena di morte come atto rituale di giustizia giustificata dalle leggi è qualcosa che fa venire la naso allo stomaco. Non c'è nulla che mi inquieti quanto vedere quei film, soprattutto dei vecchi film americani in bianco e nero, in cui ci sono persone perfettamente normali che assistono normalmente, come se andassero a teatro, a una donna messa nella camera a gas, un uomo che deve essere impiccato, a qualcun altro che deve essere comunque ucciso, perché quello è un atto di giustizia. La ritualizzazione dell'omicidio come atto di compensazione e tensioni sociali lo trovo osceno, ma non vi nego che molte volte nella mia vita ho desiderato la morte di qualcuno. A chi non è capitato? Non è una confessione, costa tantissimo. Quanti torti, quante ingiustizie e quanti atti abbiamo dovuto subire e quanti atti abbiamo dovuto assistere che hanno subito persone della nostra famiglia, persone a noi care, persone inermi. Di fronte alla violenza verso un inerme, quanti di noi si tirerebbero sulle maniche e salterebbero al collo di una persona se potessero? Beh, significa che l'omicidio è dentro di noi. Come abbiamo fatto l'analisi profonda e minuziosa delle nostre schifezze e degli aspetti sgradevoli del nostro corpo, perché conoscerli significa riconoscere la nostra umanità, questa mattina vi chiedo: se io vi fornissi una macchina perfetta, per cui voi non avreste nessuno scrupolo, nessun senso di colpa, ma nemmeno nessuna sgradevolezza, sareste capaci di uccidere, e per cosa voi uccidereste? Questa domanda la posi 2 anni fa al mio pubblico e fui sommerso dalle risposte. Nel caso di una macchina perfetta che dovesse uccidere senza lasciare tracce, ma anche nel caso di una macchina imperfetta, qualsiasi persona che compia un delitto contro i bambini merita di finire sotto quelle grinfie, e in questo caso mi proporrei personalmente per strappargli i capelli uno a uno. Avendo la possibilità di uccidere qualcuno, ucciderei un pedofilo che ha tentato di abusare mia figlia. Non è che vorrei un'esecuzione asettica, ma il sangue ci deve essere. Eppure tanto, specialmente per i pedofili. Secondo me dovrebbero evaporare tutti i pedofili, perché tanto se vanno in galera, prima o poi escono. Siamo partiti dalla forma di delitto e di attentato alla società che più fa rabbrividire: la violenza contro gli inermi, contro i minori, che in parte potrebbe giustificare un istinto profondo di giustizia attraverso l'annientamento del colpevole. Poi vedete che via via andremo avanti e capiremo quanto sono anche i futili motivi forieri di un desiderio di morte. Freud ha scritto che ciascuno di noi almeno una volta nella vita ha provato il desiderio di ammazzare, anche senza avere nessun vantaggio, solo per il gusto di farlo. E questo può avvenire, mi disse Andreoli, anche per un grande senso di stima che si acquisisce facendo in quel momento quel gesto. Uno si sente forte, si sente un dio, perché ha soppresso un altro essere umano che era l'oggetto del suo odio. Qualcosa probabilmente accade anche per Angelo, che mi chiama in questo momento e dice: qualora ci fosse un posto libero, lui farebbe il boia. Angelo, buongiorno. Buongiorno, Nicolò. Allora, sì, diciamo che si parte la premessa che io non farei del male neanche a una formica. Però, come diceva l'ascoltatore di prima, sui pedofili... Abbassi la radio, scusi Angelo, sennò si sente male. Dovrebbe abbassare la sua radio. La mia radio è spenta. Ci sentiamo un po' di riverbero. Comunque, ecco, cerchiamo di concludere la telefonata. Allora, sì. Lei comunque... Il discorso è che penso che tutti si farebbero avanti senza la macchina automatica o che cosa. Se c'è da fare il boia perché qualcuno ha fatto del male... Non credo che siano rimorsi di coscienza. Molte volte noi quando teorizziamo, io in questa trasmissione non voglio prendere posizioni precise, già ho espresso il mio pensiero, sono formalmente, profondamente contrario alla pena di morte istituzionale, ma so che in me, come in qualunque altro essere umano, esiste un istinto di omicidio. Sarei capace, in un momento di odio estremo, e l'ho desiderato varie volte nella mia vita con persone che mi hanno fatto cose veramente atroci, di ucciderle. Però naturalmente, essendo una persona civilizzata, avendo una mia coscienza, una mia visione della contemporaneità, so che non lo farei mai, però me lo sono augurato. Ecco, lei invece tranquillamente potrebbe anche a freddo, lucidamente, senza aver subito niente che faccia ribollire la propria esperienza personale, ucciderebbe un altro essere umano. Sicuramente, no? Cioè, una persona si dispiacerebbe per il prossimo, dovrebbe avere amore per il prossimo, però sapendo questa persona cosa ha fatto del male a un bambino innocente, se lei potesse... ha abusato, insomma... La giustificazione ce la siamo già data, Angelo, abbiamo già capito. Se lei potesse scegliere il sistema per sopprimere ritualmente e ufficialmente un essere umano, quale sceglierebbe? L'impiccagione, la camera a gas, la fucilazione, lo scannamento, l'iniezione letale? Lei quale specialità vorrebbe avere come boia? Ma sicuramente la meno atroce, quindi lo si fa addormentare e via. Beh, allora basta un medico, non occorre un boia. Ma non c'è bisogno di un medico, basta preparare tutti, magari anche una volta ciascuno. Oggi tocca a te, domani tocca a qualcun altro. E il rimorso di coscienza penso che sparisca, perché ci abituano sempre a essere degli automi. A fare. Quindi lei metterebbe l'iniezione letale in vena al condannato? Sì. Guardandolo negli occhi senza problemi. Glielo chiedo non per provocazione. Perché... E guardandolo negli occhi, insomma, mi sta mettendo proprio in condizione di dire no. Perché allora... poi avrei pietà e non riuscirei più a ammazzare. Allora bisognerebbe coprirgli la faccia, così almeno non c'ha quel senso di pietà. E deve essere un discorso un po'... No, un po', scusi, particolare, un po' complesso. È troppo facile, lei vuole ammazzare, non vuole nemmeno vedere in faccia la persona che uccide, scusi. Vabbè, se la devo ammazzare, lei la coppa è buonanotte. Va bene. Dire. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. La sto ascoltando. Come? La sto ascoltando. Sì, volevo semplicemente dire questo. L'argomento appunto che sto trattando mi ha fatto venire in mente un argomento di cui sono stata protagonista sotto la metropolitana, a contatto con dei giovani adolescenti, no? E ad un tratto uno dice all'altro: ma tu chi uccideresti nella tua classe? No? E questa cosa mi ha fatto pensare che appunto effettivamente siamo troppo abituati ormai alla morte in diretta, al sangue in televisione, a questa cosa qua, ed effettivamente ci stiamo abituando alla morte, no? C'è stata un'epoca in cui l'essere umano non era abituato a sopprimere altri esseri umani, anzi mi sembra che questa è l'epoca che perlomeno come principio generale, come regola etica scritta, dovrebbe valere per tutti: uccidere è un reato, è qualcosa di riprovevole, ma fino a 150 anni fa si poteva tranquillamente uccidere per onore, ecco, ma nemmeno il delitto d'onore in famiglia è stato abolito da qualche decennio. Uno poteva scannare la moglie e rischiare molto poco se aveva colta in fragranza di adulterio. Sì, che poi in realtà accade ancora adesso, cioè nel senso che effettivamente se tu uccidi un tuo caro può anche darsi che te la cavi con pochi anni di carcere, no? Nel senso che te la... però è questo il punto, è che secondo me è venuta a mancare. Sì, però non vorrei uscire, mi scusi, dall'argomento. Lei ucciderebbe o no? Questo voglio capire. Se avesse queste attenuanti, nel senso le tolgo gli scrupoli di coscienza, le tolgo la visione cruenta della vittima, le do uno strumento asettico, avrebbe qualcuno da uccidere? No, così razionalmente no. Probabilmente lo farei soltanto o in caso di difesa, nel senso proprio... Vabbè, quella è una difesa personale. La saluto, la ringrazio, cito qualche messaggio che mi sta arrivando su Facebook. Simona dice, vediamo in TV migliaia di uccisioni vere e virtuali, sembra così facile, come schiacciare moscerini. Perché quando qualcuno confonde realtà con immaginazione finisce per uccidere chi è colpevole delle piccole frustrazioni quotidiane? Ci ha tagliato la strada con un bel gestaccio, oppure guarda la nostra ragazza, e i veri persecutori sono quelli che tartassero le nostre povere vite. Ci rende poveri e miseri chi compie vera ingiustizia senza il minimo rimorso, perché anche nel delitto rimaniamo piccoli e insignificanti, incapaci di grandi gesti. Se devo finire in galera, almeno che sia per un buon motivo. Quindi sì, prefigura una sorta di omicidio spettacolare che le dia gloria. Max dice, sì, vorrei una SA-80 con ottica da cecchino, una Glock con proiettile a punta cava, una decina di frag 6-7-8, cani, corso, pitbull, bombe incendiarie, mine antiuomo, mimetica nera, passamontagna nero, anfibi con la punta d'acciaio, coltello a doppio filo, corpette, guanti in Kevlar, visore notturno. Spiega quale sarebbe l'attrezzatura ideale per poter mettere a posto il suo istinto di omicidio. Diana, una signora, non avrei mai coraggio di uccidere qualcuno vis-à-vis, ma da lontano sì, magari da un tetto con un fucile di precisione, su qualcuno potrei mirare, come il giorno dello sciacallo, ma prima dovrei passare un po' di tempo al poligono. Lavoravo nell'Arabia Saudita, alla piazza di Ariadne hanno tagliato la testa a un ragazzo che avrà avuto 22-23 anni, l'hanno portato lì con, diciamo, come un carro funebre, c'era il dottore, c'era tutto, sulla piazza dell'orologio, gli hanno abbassato la testa, il boia un colpo e è ciompata questa testa, aveva violentato una ragazza di 10-11 anni e la gente, gli applausi erano una cosa incredibile, i raggi del sangue lì da tutte le parti, ma lui si vede che era un po' drogato, gli avevano fatto qualche puntura, qualche cosa, perché era un po' sbandato con sta testa. Noi siamo scappati perché a me mi ha fatto un zocche tremendo, guardi, io non vorrei rivedere più quelle cose. Questo è un ascoltatore che ci porta una testimonianza reale, concreta, contemporanea di un paese in cui la pena di morte comunque equivale a un pubblico spettacolo, la gente applaude come se fosse un talk show, come se fosse un reality, è il reality dell'uccisione. Probabilmente in alcune visioni, secondo me, arcaiche dell'esistenza, questo serve a mantenere un freno al delitto, a dare delle indicazioni esemplari, ma io vorrei insistere su quello che è l'idea della nostra macchina della morte. Vogliamo scoprire, capire, come ieri abbiamo parlato dei nostri odori sgradevoli, abbiamo parlato delle nascoste emanazioni del corpo umano, quanto l'istinto di morte sia in noi. 800 24 00 24, se aveste la macchina della morte, chi e come uccidereste? E sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Abbassi la radio, c'è la radio accesa. Sì, sì, aspetti. Eccoci, okay, qua. Va bene? Sì, prego. La sto ascoltando. Dunque, niente, io, il mio intervento è solamente per dire una cosa, credo molto semplice. Dunque, ogni persona chiaramente è un essere imperfetto, quindi in alcuni momenti, come processo biologico proprio della persona stessa, può causare quell'istinto chiaramente omicida, che nello stesso tempo potrebbe anche causare la morte degli altri. Sì, ma parliamo di noi, Angelo, scusi, se no avrei chiamato uno psicologo, un antropologo, un esperto, non ci improvvisiamo. Io direi che il senso di questa trasmissione è avere testimonianze personali, ognuno di noi è esperto della propria coscienza. Lei ucciderebbe? Allora, io dico... Sì o no? In alcuni momenti penso senz'altro. Ecco, ma però... lucidamente, freddamente, non ha salito per strada da 7 malviventi, è chiaro che uno vende cara la pelle, vede il proprio figlio sottoposto a una violenza, uno la persona l'ammazza con i denti, non è che si pone problemi. È proprio quello che dicevo io. Perfetto, cioè... ma quello non fa parte di quello che voglio sapere stamattina. Stamattina è delitto freddo, il suo vicino di casa, il suo collega d'ufficio. Ecco, lei lo ucciderebbe se avesse una possibilità di impunità totale e anche di sgravio di coscienza? Senza dubbio sì. Però il problema è un altro, secondo me, che poi nella tua vita, essendo una persona normale e comune, quando rientri nelle tue... No, guardi, scusi, ho tolto anche questo problema. Lei si è sentito attentamente. Ho uno staff, per assurdo naturalmente, a disposizione, che toglie anche possibilità di sensi di colpa postumi. Chi uccide usando la nostra macchina della morte esce tranquillo, pulito, come un bambino il giorno della prima comunione. Io ucciderei molto volentieri, e anzi quasi l'ho fatto, il mio ex marito, fortunatamente ex per lui forse, per tutti gli anni terrificanti che ha fatto passare a me e che sta facendo ancora passare di riflesso a sua figlia, e anche sua figlia stessa ormai che ha 20 anni e ripete: ma perché non muore con tutta la gente che muore al mondo, perché non muore? È così, lo ammazzerei volentieri, togliamo un grosso peso dall'umanità e ciao. La domanda oggi è: se io vi togliessi ogni problema di coscienza, ogni problema di doverne rispondere legalmente, ogni problema di debolezza di stomaco, avreste qualcuno da uccidere nella vostra vita? 800 24 0024 è il numero verde per chiamarci. Mi scrive un'ascoltatrice che i miei esempi sono un po' distorsivi. La maggior parte dei delitti in famiglia hanno donne come vittime, è vero. Casualmente abbiamo messo due donne con desiderio o possibilità di uccidere qualcuno. E poi mi scrive un altro ascoltatore come SMS: chi uccide a sangue freddo è un uomo, o sia fosse un uomo sia uno Stato, ha esaurito tutti gli argomenti di buonsenso, praticamente un ignorante. Quanto ignora cosa sia, poi mi finisce il messaggio. Questo è naturale, abbiamo detto che grazie a Dio, Dio volendo, esiste una cultura, esiste una coscienza acquisita, esiste una sensibilità riconosciuta, per cui oggi nessuno di noi uccide. Ma come ci siamo riconosciuti, abbiamo fatto, ahimè, ammenda delle nostre schifoserie fisiche, dobbiamo questa mattina capire e comprendere se in noi esiste un istinto di morte. Conoscerlo significa contenerlo, significa razionalizzarlo, significa fare in modo che non prevalga su di noi. Io vorrei far morire una persona, un datore di lavoro che non paga i suoi dipendenti, ma in modo indolore, non in modo indolore, anzi, con molto dolore. Guarda, l'unico che avrei ammazzato nella mia vita era il mio capitano di naja, l'ho odiato a morte. Un po' con gli anni ho capito che era talmente scemo che è meglio lasciarlo vivere. A me non mi dispiacerebbe attuare la pena di morte su un mio ex socio, e dopo avermi fregato, lo vedi adesso in giro con macchine lussuose. In qualsiasi modo andrebbe bene, l'importante sarebbe il fine, però non ne sarei capace. Questi erano i messaggi che via via mi sono arrivati nel tempo, visto questa idea della macchina alla morte, un'idea nuova dei miei programmi radiofonici, e vedete che il futile motivo emerge. Ognuno di noi ha una potenziale vittima nella sua mente che, se avesse possibilità e modo, ucciderebbe. 800 24 0024. Sentiamo Angelo. Angelo, buongiorno. Angelo? Angelo, è soltanto un rumore di fondo, quindi passiamo a Rossella. Rossella, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Alessandria. Ora, ascoltando la trasmissione, mi sono accorta che forse mi sono spostata un pochino riguardo al problema. Io non potrei nemmeno pensare di non avere una coscienza. Non riesco proprio a prendere una posizione pensando di non avere poi un senso di colpa. Come si fa a scindere il senso di colpa da un giudizio, da una presa di semplicemente posizione? Se le dicono che la sua mano è stata mossa da un senso di giustizia, in fondo ha tolto dal numero dei viventi una persona che non meritava di vivere, lei sta tranquilla. Quindi ho tranquillizzato il mio senso di colpa. Sì, questo. Ma ecco. È praticamente impossibile, secondo me. Praticamente Rossella, stiamo giocando al paradosso, lo capisca. Io non vorrei mai che nessuno uccidesse un altro essere umano. Sono profondamente schifato e terrorizzato. Capito, e ho apprezzato che lei abbia fatto la premessa dove ci dice appunto, ecco, che lei è contro. Sì, però mi sono stanco che ci stupiamo tutti quando vediamo padri di famiglia, madri di famiglia, ragazzi carini e sorridenti come i nostri che prendono la mano e sgozzano qualcun altro. Ciò significa che questo istinto è dentro tutti noi. Se si libera, esiste qualcosa. Sull'istinto avrei qualche dubbio. Perché secondo me nasce da molto lontano, al di là dell'istinto della sopravvivenza. Non facciamo gli psicanalisti cucinino. Parli della sua esperienza. Io non ucciderei nessuno, lucidamente, a sangue freddo non lo farei assolutamente. Va benissimo. E dico, mi trovassi in una situazione dove devo difendermi. Okay, l'abbiamo detto. Questo. Ma... abbiamo... Antonello, buongiorno. Pronto? Aniello, scusa, ero io che leggevo male il nome. Aniello, mi scusi. Buongiorno. Senta, io sono favorevole al 100% per la pena di morte. Il foglio lo farei sicuro. Tranquillamente. Con la sedia elettrica. Così soffriranno come hanno fatto soffrire a chi hanno ammazzato. Quindi lei, scusi, Aniello, lei sceglie la sedia elettrica perché è uno strumento che procura una morte particolarmente lenta e atroce, per questo? Allora facciamo il gioco, come si usano con le streghe. Ma non credo che esista fra le possibilità di esecuzione capitale oggi annoverate negli stati cosiddetti civili il pubblico rogo, però lei vorrebbe restituire il rogo in piazza. Pronto? Come? Sì, vorrebbe, lei cosa farebbe? Darebbe fuoco alla pira di legno? Sì. Lo farei volentieri a questa gente, perché non meritano di vivere alle spalle degli altri. Stanno nelle carceri, che poi possono uscire, invece farli morire e si risparmierebbe anche parecchi soldi. Quindi per risparmiare, la legna però ha un prezzo. Costa poco. Secondo lei quanta legna ci vuole per bruciare un essere umano? Io sarei sempre d'accordo. Ma quanta legna, visto che lei vuol fare il tecnico, le chiedo quanti quintali di legna servono per bruciare un essere umano, secondo lei? Salve. Pronto? Non sa rispondere alla domanda tecnica. Matteo, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, la sto ascoltando. Sì, va bene, io per essere onesto ho detto di non chiamarmi col mio vero nome, perché ho la storia che praticamente io stavo uccidendo. Vabbè, abbiamo usato un nome di fantasia, ma comunque in ogni caso... Mi scusi. No, va benissimo. Allora, la sua storia qual è? La mia storia è questa, che noi circa 3 anni fa abbiamo scoperto che mio padre praticamente era un pedofilo. Lei quanti anni ha? Io ho 44 anni. Suo padre? Ne ha 72. Quindi vi siete accorti 3 anni fa che... Siamo accorti perché i figli di mia sorella, il più grande, ha parlato. Vabbè, insidiava i nipotini. I nipotini ha anche insidiato sua figlia, cioè mia sorella. Lei non l'ha mai saputo o sospettato? No, io non ho sospettato mai niente. Sua sorella poi gliel'ha ammesso? Mia sorella poi ha ammesso perché ha visto il figlio piangere come pianse lei. E dopo da lì è venuto fuori che lui aveva messo le mani addosso al mio figlio. È una triste, atroce storia di violenza sessuale in famiglia, ahimè molto ricorrente, e ahimè che si ripercuote a catena quando qualcuno non interrompe questa catena. Io per adesso non l'ho ucciso. Però lei avrebbe l'istinto di uccidere suo padre. Io lo ucciderò e mi assumo la responsabilità dicendolo per radio. Stia attento perché in questo momento... No, guardi, io non credo nella giustizia. È una notizia umana. È una notizia criminis, se chiunque senta la viene a cercare. Ma guardi, può essere tutte le notizie criminis che si vogliono. Chi ha provato sulla propria pelle non può sapere. Quindi lei vuol dare l'annuncio alla radio che ucciderà suo padre. Beh, io... se posso darle un accurato consiglio, usciamo un attimo dal gioco, dalla metafora, dalla simulazione. Uccidere una persona è un atto che provoca conseguenze notevoli, sia per la persona che viene uccisa e sia per la persona che uccide. Quindi io penserei su questa cosa, ma mi parli del suo istinto di omicidio, perché mi interessa capire... Questa è una situazione estrema, è il caso più classico citato dai nostri ascoltatori per cui uno si sente affrancato da ogni responsabilità. Il padre pedofilo è un motivo sufficiente perché il figlio possa liberare questo istinto di morte, secondo lei? Ma io sono andato a casa sua con l'accetta in mano e lo stavo facendo a pezzi. Ma non l'ha fatto? Ho detto a mia madre di uscire perché aveva una commissione da fare. E io l'ho trovato fuori come aspettavo. Io sono arrivato a 10 metri da lui. E aveva scelto l'accetta per ucciderlo? Sì, perché lo volevo vedere tagliare a pezzi. E cosa, per quale motivo di giusta remora alla fine ha fermato questo suo gesto? No, non l'ho fermato. Ah, quindi l'ha preso, accettate? L'ho soltanto rinviato. Sì, ma in quel momento qualcosa l'avrà bloccata. Lei... Mi ha bloccato soltanto che mi è passato per la mente un attimo, come dire, è pur sempre mio padre. Guarda, io non sono né psicologo né prete né consigliere né posso fare la morale a nessuno, ma io mi attaccherei per quanto possibile a questo pensiero che l'ha fermata la prima volta. La saluto, buona giornata, per quanto sia possibile. Io vorrei vedere morto il mio vicino di casa, è un rompiballe, ha una voce che sembra un energumeno. Oppure tagliare solo la lingua, tagliare in due la lingua come i serpenti. Se possibile, se puoi eliminare il cane davanti a casa mia che abbaia sempre e il neonato della mia vicina di casa, grazie. Vorrei far fuori il mio vicino di casa, ha un vocione che è un cavernicolo, però l'unico problema è quando gli tagli la testa, ho paura che questo vada avanti a parlare. ...800-24-0024... mi scrive Jacopo su Facebook, ma non pensi di stare esagerando un pochino? Io vorrei dare un senso particolare a questo spazio radiofonico. Questo è lo spazio in cui ognuno diventa esperto della propria esperienza personale, senza freni, senza limiti, naturalmente con il giudizio di contenere, osservare, guardare anche gli istinti, anche gli aspetti sgradevoli della propria umanità. Conoscerli significa evitare che possano fare danni a noi e agli altri. Gianluca, c'è un imprenditore che fa la bella vita, compra macchine, fa di tutto, si diverte, va con le amanti, va con le donne, va con gli uomini. Quando poi deve pagare i fornitori, se ne frega altamente e nemmeno i dipendenti paga mai. Lo vorrei uccidere io con le mie stesse mani, se è possibile, ma fallo tu. Ma in modo indolore, non in modo indolore, no. Fallo soffrire molto. Ti ringrazio. Mi scrive Tommy, ma i pazzi scatenati li trovi tutti tu. Beh, questa è gente che normalmente telefona, circola per le strade, sono miei parenti, miei fratelli, miei amici, miei compagni di scuola, miei colleghi d'ufficio, siamo noi le persone che telefonano, non guardiamo sempre con occhio alieno la persona che ci circonda come se fosse differente da noi. E quello che vediamo di detestabile negli altri probabilmente rispecchia quello che siamo anche noi. Poi mi scrive Vincenzo, invece della motosega per chiudere basta sfumare abbassando il volume. Sarebbe meno cafone, ma noi vogliamo essere cafoni, quindi insistiamo con la motosega. Poi mi sto preoccupando, dice Paolo da Bergamo, non ho nessuno che vorrei uccidere, sarò mica malato? No, probabilmente è molto più fortunato di tante altre persone. Franco, buongiorno. Buongiorno. Per cosa ucciderebbe? Allora, premesso che sono... Non faccia premesse, vado al punto. Non voglio no, però, certo, io non riesco a sostenere quei documentari quando si vede il leone che sparano la gazzella, per esempio, no? Le fa pena la gazzella? Sì, non riesco proprio a vederlo. Però? Però, ecco, a presente quel fatto successo già da due stati, è stato denunciato, quegli sfruttatori di extracomunitari polacchi, eccetera, che venivano letteralmente sequestrati e fatti lavorare nelle Puglie, no? Sì. Per 2-3 euro al giorno, riempiti di botte, fatti dormire in casolari pericolanti, eccetera. Ecco, bene, quel tipo di persone lì, per esempio, li farebberei con un colpo in fronte, senza pensarci due volte. Quindi lei si farebbe il bounty killer dei polacchi? No, nel senso, diciamo, chi distrugge la dignità delle persone, secondo me, non merita di esistere. Non parlo nemmeno di chi ruba, di chi è rissoso, queste cose sono bazzecco in confronto. Vabbè, non cerchi giustificazione, l'importante è capire che lei sparerebbe in testa tranquillamente, se avesse naturalmente tutte le garanzie di impunità, alle persone che compiono atti particolarmente cruenti ed efferrati. Buongiorno, Manfredo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, chiamo da Firenze. Ma io, senti, ho perso un attimo il filo. No, io ammazzerei, ecco una cosa, volevo dire questo, scusami. I pedofili. L'abbiamo già detto, sì. Ok, ma è facile. Sto pensando una cosa. Allora cosa si fa a quelli che sanno che c'è la melanina nel latte e ammazzano i bambini lo stesso? Cioè, io credo che tutti noi si sia in grado di ammazzare qualcuno, io per primo anche se non ammazzo neanche una zanzara, no, le zanzare sì, però quello che... e posso credere che in un momento di grossa tensione si possa fare. A me quelli che fanno veramente schifo sono i personaggi che freddamente dietro un bel dietro un bel divano, cioè dietro un bel tavolo, eccetera, eccetera, pianificano distruzione e morte degli altri in maniera fredda e asettica, ragionando in termini di numeri, non di persone. Va bene, quelli sono assassini professionisti, esatto, ma esiste il dilettantismo o l'omicidio fai da te, secondo lei, come alternativa all'angoscia o agli atti di ingiustizia che subiamo? Sì, cioè, no, io il mio sogno d'omicidio è come l'Interface con la sega a motore, possibilmente alla buongiorno dominale. Così sente quanto è grazioso avere il dente della sega di motore che ti fende le ginocchia. Marzio, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che io, francamente, come macchina della morte userei il mio furgone, perché è il mio mezzo di lavoro, e con la quale investirei tipo il mio capo, i miei colleghi e, non so, anche il mio vicino di casa. Lei lo sta dicendo come Butad, o ha mai coltivato in sé l'idea concreta, che naturalmente poi si è frenata per un atto di civilizzazione, di uccidere queste persone? Sì, in modo figurato ovviamente, non mi sentirei mai, anzi mi passerebbe mai per la testa di farlo veramente. Però c'è del metodo, nella scelta del mezzo di locomozione è una scelta da killer perfetto. Oggi il delitto perfetto si può compiere semplicemente uccidendo una persona con la propria automobile. Più che altro che la mia scelta, la scelta della mia macchina della morte, era proprio per l'odio che riverso su questo mezzo, perché è quello l'odio che riverso nel mio lavoro. Quindi userei il mezzo dell'odio per uccidere le persone che mi creano questo odio, ha capito? Quindi utilizzerei il mio furgone. Vito, buongiorno. Vito? Ah, Vito ancora non è. Quindi leggo un messaggio di Simon che mi dice: agghiacciante, il gioco intellettuale si è sgonfiato di fronte a una situazione concreta e drammatica. La stessa differenza tra grattarsi la testa e un pugno sullo stomaco. Allude naturalmente alla telefonata del signore prima, che probabilmente, spero che sia così, per elaborare il proprio desiderio di uccidere l'ha raccontato alla radio. È arrivato con l'accetta fino vicino al padre pedofilo e insidiatore dei nipotini, poi si è fermato ricordando che in fondo era il padre e attingendo ai ricordi positivi di quella persona, evitando di compiere un gesto che sarebbe senza senso, non risolverebbe nessun problema, anzi ne aumenterebbe. Sì, ucciderei tutti quelli che mi hanno fatto del male, ma non senza vederli. Potrei essere un boia? In prima istanza sì, per rabbia. Io sono assolutamente contro la pena capitale, però effettivamente mio padre lo ucciderei magari in fretta, ma lo ucciderei, è stata la causa di tante spese dello psicanalista e tanti problemi con i miei uomini dopo. Volentieri lo vedrei disteso sulla lastra di marmo. Molti parlano di omicidio come se fosse qualcosa che assomiglia a stringere la mano a una persona, dargli una pacca sulla spalla. Mi mandavi un sms un nostro ascoltatore, dice: sono stato coinvolto in un incidente stradale mortale, ho visto morire la persona che si è schiantata su di me, è orribile, non credo che sia possibile uccidere. Ecco, non ci scordiamo che stroncare una vita umana è un atto atroce e anche piuttosto difficile. Abbiamo al telefono Vito, buongiorno. Buongiorno. Sì, sia sintetico, siamo proprio in chiusura, abbiamo pochissimi secondi. Di abusi di potere da parte di chi gestisce praticamente le forze dell'ordine, hanno fatto perdere il posto di lavoro, hanno fatto false comunicazioni e tutto il resto. E quindi? Quindi per fortuna poi alla fine c'è stata una giustizia che è quella che va dall'alto, che gli ha mandato un male incurabile e l'ha sistemato. Quindi ci ha pensato il padre Teddo, se no lei ci avrebbe pensato... Perché io ci ho provato anche parlando con i giudici, parlando con qualcuno che è il suo superiore, non c'è stata avversione, però poi c'è stata una sentenza. Sì, ma leggo nella scheda della sua telefonata, avrebbe voluto ammazzarlo con la sua pistola di guardia giurata. Ha pensato veramente di usare la sua pistola per sanare questa ingiustizia? Beh, vabbè, diciamo che ti passa per la mente questo pensiero qui, perché quando uno ti fa perdere il posto di lavoro con tre figli e moglie a carico, uno ci pensa un po', dico io, perché questo uno che rappresenta le forze dell'ordine, uno che ha un dovere andare in qualche gente. In qualche maniera lei comunque l'ha compiuto questo omicidio, gioendo del fatto che questa persona è morta di un male incurabile? No, non è morta ancora, è soltanto che gli è arrivata la sentenza. Cioè lei sta ridendo e sta... godendo. Guarda, no, ma io, non sono suo giudice, sto sottolineando. Lei sta ridendo, in fondo dice io. Non l'ho ucciso io, ma qualcun altro lo sta uccidendo, e quindi questa cosa la paga, la fa stare meglio. Però a un certo punto, sì o no, sì o no, scusi, porti, ho capito, Vito, ho capito, la fa stare meglio pensare questa persona è in agonia. Certo, mi fa stare va bene. Meglio. La ringrazio, la saluto, ricordo la replica questa sera alle 22, 800 24 00 24, chi volesse chiamare in diretta, 8, non mi ricordo l'altro numero, ci sentiamo domani che è meglio. Melog 2.0.